Capitolo 39. Chi mi preoccupava di più in quel periodo era il mio piccolo Arthur, poiché il padre e i suoi amici pareva volessero a ogni costo incoraggiare in lui tutte le possibili inclinazioni al vizio, dandogli le peggiori abitudini e fare di lui così un vero uomo. Non serve che aggiunga altro per illustrare la mia angoscia e il mio desiderio di liberarlo dalle mani di quei cattivi maestri a ogni costo. Iniziai con il tenerlo il più spesso possibile insieme a me nella sua camera da letto, chiedendo a Rachel di non farlo scendere in sala da pranzo per il dessert finché c'erano ancora i signori. Ma non mi fu possibile portare avanti a lungo questa soluzione, poiché suo padre contraddiceva le mie disposizioni, affermando che non avrebbe lasciato che il bambino si avvilisse in compagnia di una vecchia balia e di una madre dannatamente stupida. E così il piccolo, malgrado l'ansia di sua madre, ogni sera scendeva con loro, imparando a bere vino come il padre, a imprecare come il signor Hattersley, a comportarsi secondo quel che gli pareva giusto e mandare a quel paese sua madre se interveniva. Vedere quel bambinetto, tanto bello, innocente e birichino, fare e dire certe cose per loro era fonte di gran divertimento, quanto per me di tormento. Dopo aver suscitato l'ilarità di tutti quanti, anche il piccolo si metteva a ridere, tutto contento, e se per caso gli capitava di fermare su di me i suoi occhi azzurri, perdeva per un istante quel bagliore e diceva: «Mamma, tu perché non ridi? Papà, falla ridere, è sempre tanto seria». E quindi mi toccava trattenermi con quelle bestie in attesa di poter trascinare via mio figlio, e non potevo più andarmene subito dopo cena, come desideravo. Arthur non voleva mai venir via e spesso dovevo costringerlo, passando per una madre cattiva e ingiusta. Talvolta il padre mi chiedeva di lasciarglielo, e in quel caso obbedivo e mi ritiravo a tormentarmi nella mia angoscia, sforzandomi di trovare una possibile soluzione a questa disgrazia. Anche in questo caso devo rendere giustizia al signor Hargrave. Riconosco di non averlo mai visto ridere per la condotta del piccolo Arthur, né incoraggiarlo in alcun modo per le sue bravate da uomo. Quando il piccolo libertino si abbandonava alle sue malefatte, notavo a volte che a Hargrave tremava la bocca, che lanciava una rapida occhiata al bambino e poi a me, colto da una istintiva cupa soddisfazione nel vedermi tanto afflitta e preoccupata da quella situazione. Ci fu però un episodio in particolare, una volta in cui Arthur si stava comportando davvero malissimo, mentre il signor Huntington e i suoi amici ridevano e lo incoraggiavano, mancandomi gravemente di rispetto, e io desideravo a tal punto portarlo al più presto fuori da quella stanza che stavo per cedere a una crisi di nervi davanti a tutti. In quel momento il signor Hargrave si alzò di colpo e andò a prelevare bruscamente il piccolo dalle ginocchia di suo padre, sulle quali sedeva già brillo a ridere e a insultarmi, usando parole delle quali non conosceva neppure il significato. Lo portò all'ingresso, tenendo aperta la porta per me. Mi lasciò passare con un inchino e la richiuse. Mentre salivo a portare il piccolo confuso e smarrito nella sua camera, sentii il signor Hargrave confrontarsi con il padrone di casa, già mezzo sbronzo, in toni piuttosto forti. Del resto le cose non possono assolutamente continuare in questo modo. Mio figlio non può crescere in questo clima di peccaminosa corruzione. Preferisco che viva povero e con una madre in esilio che con un padre del genere. Può darsi che questi ospiti non si fermino ancora a lungo, ma di certo torneranno, e inoltre lui, il peggiore e il più pericoloso nemico di suo figlio, resterebbe comunque qui. Se fosse solo per me, sarei disposta a sopportarlo ancora, ma mio figlio non può rimanere. Ignorerò quel che pensano il mondo intero e i miei amici e seguirò quel che sento come mio dovere. Dove posso rifugiarmi? Dove? Come mi guadagnerò di che vivere? Come mi piacerebbe partire con il mio prezioso bagaglio, raggiungere in carrozza un porto e imbarcarmi attraverso l'Oceano Atlantico e trasferirmi in un posto tranquillo del New England. Lì potrei mantenere entrambi lavorando con le mie mani, tavolozza di colori e cavalletto da pittura, un tempo compagni di giochi, sarebbero miei fedeli compagni di lavoro invece. Mi domando se il mio talento e la mia formazione come artista sarebbero sufficienti a garantirmi un simile lavoro senza bisogno di raccomandazioni. No, avrei dovuto lavorare sodo per migliorarmi ancora e arrivare a produrre opere di qualità che garantissero per me come pittrice e come insegnante. Non che aspirassi a grandi successi, ma poter contare su un minimo di concretezza era fondamentale per me. Non potevo certo condannare mio figlio alla miseria più nera. Avevo anche bisogno di soldi per pagare il viaggio, la traversata e i primi tempi nella nuova casa, neppure pochi poi, giacché chi poteva prevedere quanto ci sarebbe voluto prima di superare l'indifferenza degli altri o la mia incapacità di incontrare il loro gusto. Che dovevo fare? Scrivere a mio fratello e raccontargli la situazione, quel che avevo deciso di fare? No, no. Anche se gli avessi confidato tutti i miei tormenti, cosa che comunque non avrei fatto volentieri, avrebbe considerato folle la mia risoluzione, come del resto anche gli zii e Millicent. Meglio portare ancora pazienza e mettere da parte qualcosa. Mi sarei confidata unicamente con Rachel, certa di convincerla della validità del mio piano. Lei mi avrebbe aiutata a trovare un mercante di quadri quando fosse arrivato il momento e a vendere privatamente quelli che avevo già pronti e che mi sarebbero serviti a raggranellare il denaro sufficiente. Volevo vendere anche i miei gioielli, non quelli di famiglia, ma i pochi altri che avevo e quelli che lo zio mi aveva regalato per il matrimonio. Ancora pochi mesi di duro lavoro e ce l'avremmo fatta. Potevo sopportarli e mio figlio non avrebbe subito danni peggiori in così poco tempo di quanti non ne avesse già subiti. Una volta presa la decisione, cominciai subito a progettare il modo di realizzarla. Magari con il passare del tempo mi sarei scoraggiata, o mi sarei forse interrogata sui vantaggi e gli svantaggi, fino a convincermi che questi ultimi superassero i primi, e ad abbandonare l'idea o rimandarla a tempi migliori, a meno che non fosse capitato nel frattempo qualcosa che avrebbe dato nuovamente conferma della validità della mia scelta, in cui ancora credo fermamente e che sono ancora convinta sia importante perseguire. Da quando Lord Loborough era partito, consideravo la biblioteca un rifugio sicuro. Nessuno dei nostri ospiti coltivava interessi letterari, a parte il signor Hargrave, il quale, per il momento, sembrava accontentarsi di giornali e riviste. E comunque ero sicura che anche se fosse entrato, vedendomi, se ne sarebbe andato. Dopo la partenza della madre e delle sorelle, infatti, a dispetto di quanto ci si sarebbe aspettato, era diventato più distaccato, esattamente come volevo. Sistemai lì il cavalletto e lì mi dedicavo ai miei quadri dalla mattina alla sera, interrompendomi solo per le più strette necessità o i doveri cui il piccolo Arthur mi richiamava, dato che ritenevo importante che una parte della giornata restasse comunque dedicata alla sua istruzione e al suo svago. Era la terza mattina di lavoro, quando, contrariamente a quel che mi aspettavo, Hargrave entrò in biblioteca e, vedendomi, non se ne andò. Si scusò invece per il disturbo e disse che doveva cercare un libro. Lo trovò, ma si fermò ancora per sbirciare il mio quadro. Era un uomo di una certa cultura e in grado di conversare di pittura. Mi comunicò il suo parere, senza particolare incoraggiamento da parte mia, e poi allargò il discorso sull'arte in generale. Vedendo che non partecipavo alla dissertazione, lasciò cadere l'argomento, eppure non si trattenne. Non passate molto tempo con noi, signora Huntington, disse dopo qualche istante di silenzio durante il quale io avevo continuato a stemperare i miei colori. È come biasimarvi del resto. Ne avrete abbastanza di tutti. Io stesso sono a disagio per la condotta dei miei compagni, stufo dei loro argomenti di conversazione e dei loro assurdi passatempi. Soprattutto da quando non c'è più nessuno a frenare i loro appetiti. Dal momento che siamo stati giustamente lasciati in balia del nostro destino. Sto meditando di andarmene, credo entro questa settimana. Non mi dispiacerà, credo. Lui tacque e io anche. Rimpiangerete solo il fatto che non possa portarmi via tutti. Talvolta mi vanto di non essere come loro, pur stando in loro compagnia, ma capisco che sarete comunque contenta che me ne vada. Mi dispiace, ma non vi biasimo. La vostra partenza non mi è gradita, signor Hargrave, poiché vi siete comportato come un gentiluomo, gli risposi per gratificare la sua condotta. Eppure vi confesso che sarò felice di liberarmi di tutto il resto, a rischio di apparire come una pessima padrona di casa. Nessuno si sognerebbe di biasimarvi per questo, replicò lui in tono serio, tanto meno i vostri ospiti, credetemi. E a quel punto parve animato da un'improvvisa determinazione. Voglio riferirvi in parte quel che è stato detto ieri nella sala da pranzo dopo che vi siete ritirata. La cosa magari non vi turberà, poiché è noto che siete piuttosto serena su certi argomenti, disse con sarcasmo. Stavano parlando di Loboraf e della sua bella consorte, la cui improvvisa partenza non è un mistero per nessuno di loro, e che conoscono tutti così bene che, nonostante sia una mia parente, non ho trovato argomenti per difenderla. Accidenti. Sarò costretto a vendicarmi. Non solo quel cane disonora la mia famiglia, ma lo spiffera i 420. Vi prego di scusarmi, signora. A proposito di Loboraf, insomma, stavano dicendo che, essendo ora i due separati, Huntington poteva incontrare Annabella con maggior libertà. E lui ha risposto: grazie tante, ma per il momento ne ho abbastanza. Non farò nulla per rivederla se non sarà lei a cercarmi. Cosa farete, Huntington, quando partiremo noi? Gli ha domandato Hattersley. Tornerete un bravo marito e un bravo padre, come farò io non appena mi sarò liberato di voi e di questi altri farabutti che definite amici? Dovreste proprio farlo. Vostra moglie è sin troppo buona per voi ed è anche una bella. E ha aggiunto un'osservazione su di voi che preferisco non ripetere e che lui stesso avrebbe fatto meglio a non lasciarsi scappare. Invece l'ha detta a gran voce davanti a un pubblico rispetto al quale anche solo nominarvi è dissacrante, incapace com'è di comprendere e apprezzare le vostre doti. Intanto Huntington continuava a bere. O fissare il bicchiere inebetito senza rispondere finché Hattersley non l'ha scosso con un «Allora, mi avete sentito o no?» «Sì, andate pure avanti», gli ha detto. «Ho finito, voglio sapere solo se seguirete il mio consiglio». «E quale sarebbe?» «Di mettere la testa a posto, cane che non siete altro», gli ha urlato Ralph Hattersley, «di scusarvi con vostra moglie e rigare dritto». «Quale moglie?» «Io non ho moglie». Gli ha risposto Huntington alzando gli occhi dal bicchiere. Oh, se invece ce l'ho, la considero talmente poco che se qualcuno di voi la volesse prendere è il benvenuto. Fatevi sotto, coraggio, io vi benedico. A quel punto io, anzi qualcuno, ha domandato a Huntington se parlasse sul serio e lui ha giurato di sì. Cosa ne dite voi, signora? Mi chiese cercando di vedermi bene in viso, dato che mi ero lievemente girata. Dico solo, risposi in tono pacato, che quel che considera tanto poco non rimarrà suo ancora a lungo. Non vorrete dirmi che una simile canaglia vi può ferire al punto da spezzarvi il cuore e convincervi a togliervi la vita? Assolutamente no. Ho il cuore troppo duro ormai perché possa spezzarsi e inoltre ho intenzione di vivere a lungo. Quindi? Volete lasciarlo? Quando? In che modo? Mi chiese in preda all'ansia. Quando mi sentirò pronta e nel modo in cui riuscirò a farlo. E vostro figlio? Il bambino verrà insieme a me. Non ve lo permetterà mai. Non ho intenzione di chiedere il suo permesso. State pensando di fuggire di nascosto, quindi. E con chi, signora Huntington? Con mio figlio? E quasi certamente la balia. Così, da sola, senza nessuno che vi protegga. E dove andrete? Vostro marito vi darà la caccia e vi riporterà qui. Ho fatto degli ottimi piani da questo punto di vista. Mi basterà allontanarmi da qui per sentirmi al sicuro. Hargrave si avvicinò di un passo. Prese fiato per dire qualcosa. Riconobbi il rossore sul suo viso con lo sguardo acceso e mi voltai di scatto, tornando a dipingere con furia, troppa, per quel povero quadro. Signora, voi siete senza pietà, mi disse poi in tono grave, nei miei confronti e anche nei vostri. Signor Hargrave, vi ricordo che mi avete fatto una promessa. Adesso devo parlare o finirà per scoppiarmi il cuore e voi mi ascolterete, gridò bloccandomi la strada mentre raggiungevo la porta. Avete detto voi stessa di non sentirvi più legata a vostro marito. Lui ha affermato di essere così stufo di voi da volervi cedere al primo che ne faccia richiesta. Siete in procinto di lasciarlo, ma nessuno potrà credere che lo facciate da sola. Diranno invece: alla fine l'ha lasciato, come biasimarla? In pochi osano criticarla, ancor meno sono disposti a compatire lui, ma con chi è fuggita? La vostra virtù, se così volete definirla, non vi frutterà. Nessuno potrà credervi, neppure i migliori amici che avete. È davvero qualcosa di assurdo e impossibile da credere se non per chi, avendo fatto esperienza di situazioni simili, sa cosa significhi. E comunque, che cosa pensate di fare sola al mondo? Siete giovane, inesperta, avete ricevuto un'educazione delicata. Voi mi state suggerendo, se ho capito bene, di restarmene dove sono? Ebbene, si vedrà. No, io dico lasciatelo, lasciatelo, Helen, ma non fatelo da sola. Permettete a me di proteggervi, disse in tono impetuoso. Mai, non finché mi resterà ancora un po' di lucidità, gli risposi liberando la mano che si era preso la libertà di prendere tra le sue. Tuttavia, egli ormai aveva preso coraggio e si era lanciato. Sarebbe arrivato fino in fondo e non si sarebbe fermato davanti a niente. Non potete respingermi, esclamò con ardore, prendendomi entrambe le mani e cadendo in ginocchio ai miei piedi. Mi guardava così, dal basso verso l'alto, con aria supplice e al tempo stesso severa. A questo punto non c'è più motivo, verreste meno alla volontà divina. È Dio che mi ha scelto come vostro difensore, ne sono certo, come se una voce mi stesse dicendo dal cielo, voi due sarete come una cosa sola, e voi mi rifiutate. Signor Hargrave, vi prego di lasciarmi andare. Lui però strisse ancora di più la presa. Lasciatemi! Dissi ancora, questa volta tremando di rabbia. In ginocchio, com'era, aveva il viso all'altezza della finestra e lo vidi d'un tratto sussultare e guardar fuori. Notai un'espressione trionfante accendergli il volto. Mi voltai di scatto in tempo per scorgere un'ombra che girava l'angolo. Era il signor Grimsby, annunciò in tono pacato. Ora andrà subito a riferire a Huntington e agli altri quanto ha visto, condito dei dettagli che riterrà opportuni. Non nutre molta simpatia per voi, né riguardo per il vostro sesso, né ammirazione per le vostre virtù. Racconterà la sua versione dei fatti in modo che il suo pubblico possa trarne una sola conclusione. La vostra rispettabilità è perduta e non c'è assolutamente nulla che voi o io si possa fare per evitarlo, ma permettetemi di proteggervi e chiunque oserà insultarvi dovrà vedersela con me. Nessuno mi ha mai insultata tanto quanto state insultandomi voi in questo momento, signore, gli dissi liberandomi furiosa le mani. No, io non vi sto insultando, io vi adoro, siete la mia dea, il mio angelo. Metto ogni mia risorsa a vostra completa disposizione e voi dovete accettarle. Non mi era mai capitato di vedere un uomo in quelle condizioni. D'un tratto mi si fece incontro. Io presi il mestichino e glielo puntai addosso. Rimase sgomento dal mio gesto, anche perché dovevo avere l'aria di essere altrettanto sconvolta. Poi raggiunsi la campanella e posai la mano sul cordone, il che contribuì ulteriormente a calmarlo. Cercò di dissuadermi dal suonare con un gesto della mano che era al tempo stesso dispotico e patetico. Allora restate lì dove siete, statemi bene a sentire, gli dissi. Indietreggiò. Non mi piacete, dissi con sentita determinazione in modo che le mie parole gli arrivassero con maggiore enfasi. Se anche fossi divorziata o se mio marito fosse morto, io non sposerei mai voi. Spero di essere stata chiara. Era sconvolto dalla rabbia. Siete stata chiarissima. Apprendo che siete dunque la donna più crudele, snaturata e ingrata che conosca, rispose amaramente. Ingrata, dite? Sì, ingrata. Vi sbagliate, signor Hargrave, non lo sono. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore per tutto il bene che mi avete fatto e quello che avreste voluto farmi, mentre per tutto il male che mi avete fatto, prego che Dio possa perdonarvi e ricondurvi su una strada di rettitudine. Fu allora che si spalancò la porta. Erano Huntington e Hattersley, che si era fermato qualche passo indietro per sistemare fucile e scovolo. Il signor Huntington invece entrò e si avviò al camino per poi girarsi a guardare me e Hargrave, soprattutto Hargrave. Sorrideva malizioso, guardandolo con una luce insolente negli occhi e un sopracciglio alzato. Cosa volete? Domandò Hargrave rompendo il silenzio. Cosa vogliamo? Disse Huntington. Vogliamo sapere se vuoi venire con noi per una caccia al fagiano, Walter. Ti prometto che spareremo solo alle lepri, disse Hattersley dal corridoio. Hargrave non disse nulla, andò alla finestra per ritrovare un poco di lucidità. Arrossì leggermente per la rabbia, ma poi ritrovò la calma, si girò e disse: Sono qui per dire addio alla signora Huntington, poiché domani devo andarmene. Oh, e come mai una decisione tanto improvvisa? Posso chiedervi cosa vi ha convinto ad andarvene? Affari, disse Hargrave, sostenendo con uno sguardo di sfida il sorriso malizioso del padrone di casa. Ah, se è così, disse, e Hargrave lasciò la stanza. A quel punto, Huntington si girò verso di me e prese a insultarmi a voce bassissima, rivolgendomi le offese più volgari che si possano immaginare con la testa e pronunciare con la bocca. Non lo interruppi, ma dentro stavo bruciando di rabbia. Alla fine dissi: Anche ammesso che le tue accuse siano fondate, con che coraggio mi parli? Ha ragione lei, gridò Hattersley. Poggiò il fucile al muro ed entrò in salotto per prendere sotto braccio l'amico e portarlo via. Dai, venite con me, non importa se sia vero o falso, alla fine, poiché dopo quanto è successo e dopo quel che avete detto l'altra sera, non avete più il diritto di prendervela. Forza, andiamo. Eppure, sembrava sottintendere qualcosa, il che mi irritava terribilmente. Signor Hattersley, voi sospettate di me? Ci mancherebbe, io non sospetto proprio di nessuno. Va tutto bene, forza Arthur, venite via adesso. Guardate, non può negarlo, non può negarlo nemmeno a costo della vita, disse tra i denti, sibilandomi altre offese delle più terribili. Poi uscì dalla stanza, recuperò il suo cappello e il suo fucile. Non mi abbasserò a giustificarmi davanti a te, ma voi, Hattersley, se avete l'ardire di sospettare di me, chiedete a Hargrave di raccontarvi come sono andate le cose, dissi. Entrambi scoppiarono a ridere, mettendomi brividi fino alla punta delle dita. Dov'è andato? Glielo domando io allora, dissi andando loro incontro. Hattersley indicò la porta d'ingresso soffocando un'altra risata. Era socchiusa e Hargrave era proprio lì fuori. Signor Hargrave, avvicinatevi per favore, dissi, al che si girò a guardarmi stupito. Venite qui, per favore, ripetei in tono tanto severo che egli non poté resistere alla mia autorità. Risalì i gradini ed entrò in casa con riluttanza. Volete dire a questi gentiluomini, anzi a questi uomini, se ho ceduto alle vostre istanze? Non credo di seguirvi, signora. Mi avete seguito perfettamente, signor Hargrave, e voglio pensare che siate un gentiluomo fino in fondo adesso e che risponderete con onestà. Ho ceduto oppure no? No, sussurrò voltandosi dall'altra parte. Potete parlare più forte, perché vi sentano con chiarezza anche loro? Ho ceduto alle vostre istanze, sì o no? No. Non avete ceduto. E c'è da credergli, altrimenti non sarebbe così nero, osservò Hattersley. Potete prendervi la soddisfazione che è in vostro diritto di gentiluomo, si offrì Hargrave parlando al padrone di casa in tono calmo e aspro. Andate all'inferno, gli rispose lui con impazienza, al che Hargrave se ne andò sdegnato, aggiungendo: Sapete dove trovarmi, se volete. Ottenne in risposta solo una lunga litania di insulti e imprecazioni. Avete visto? Huntington? Ora lo vedete chiaramente, disse Hattersley. Cosa ci vede lui a me non interessa, mi intromisi io, ma voglio sapere da voi, Hattersley, se quando qualcuno infangherà il mio nome mi difenderete. Vi difenderò a spada tratta. A quel punto mi ritirai in biblioteca. Come avevo potuto chiedere una cosa simile a un uomo simile? Non saprei dirlo. Eppure, quando temi di annegare, ti aggrappi anche ai rami più piccoli. La verità è che mi avevano fatta disperare, avevo perso la lucidità. Nessuno in quel crogiolo di screanzati difendeva il mio nome dal fango, e forse neppure fuori da lì. Tra il mio miserabile marito, il malvagio Grimsby e quel mascalzone di Hargrave, quella canaglia di Hattersley, per quanto rozzo, era un faro nella notte. Ero molto turbata. Mai avrei immaginato di poter sentir dire certe cose proprio in casa mia, anzi proprio rivolte a me e dalla bocca di chi si pregiava di farsi chiamare gentiluomo. Né avrei mai immaginato di riuscire a sopportare quelle ingiurie con tanta compostezza. Rispondendo con forza e coraggio come invece avevo appena fatto. Una simile risolutezza può nascere solo dalle esperienze e dalla disperazione. Così pensavo, mentre camminavo su e giù per la stanza, desiderando di poter prendere mio figlio e andarmene subito, senza indugiare neppure un'altra ora. Ma dovevo avere pazienza, dovevo lavorare prima e duramente. Via, allora, iniziamo. Mi dissi, senza lasciare tutto questo spazio ai piagnistei e agli inutili rancori per la mia sorte e le persone che la condizionano. Misi da parte, non senza sforzo, i miei turbamenti e lavorai tutto il giorno. Hargrave l'indomani se ne andò, come aveva detto, mentre gli altri si fermarono per altre 2 o 3 settimane. Feci del mio meglio per incontrarli il meno possibile. E portai avanti il mio lavoro con impegno costante, come faccio ancora. Nel frattempo confidai a Rachel le mie intenzioni, e per fortuna non ci volle molto a convincerla a condividere il mio piano. Non che non sia una donna avveduta e moderata, ma detesta talmente il suo padrone, e ama talmente la sua padrona e il suo bambino, che si limitò a fare poche obiezioni, versando molte lacrime di compassione per me, che ero costretta a un simile passo. Ma poi incoraggiò la mia determinazione e si disse disposta ad aiutarmi come poteva. A una condizione però, di venire con me. In caso contrario avrebbe ritenuto assurdo e impensabile che Arthur e io potessimo andare da soli. Mi commosse, offrendosi di aiutarmi con i suoi risparmi, imbarazzata di prendersi una tale libertà, ma dicendomi che sarebbe stata felice se li avessi accettati in prestito. Ovviamente non ho pensato di poterli accettare neanche per un momento, ma ora, per fortuna, ho messo da parte anche io un bel gruzzolo e i preparativi sono avanzati al punto che spero di potermi liberare davvero molto presto. Aspetteremo solo che passi questo inclemente clima invernale e poi una mattina il signor Huntington scenderà a colazione e troverà una tavola vuota. Chiamerà a gran voce per la casa la moglie e il figlio che nel frattempo saranno ormai a 50 miglia di distanza o anche di più, già che ce ne andremo molto prima dell'alba e lui non saprà della nostra partenza che è a giorno inoltrato. Ah, so bene quali e quanti guai nasceranno a causa del passo che sto per compiere, ma non vacillo mai nella mia risolutezza perché ho sempre ben presente mio figlio. Questa mattina, mentre ero intenta al mio lavoro, lui era ai miei piedi che giocava con dei gritagli di tela che gli avevo regalato, eppure sembrava pensieroso. Dopo un po' ha sollevato lo sguardo triste e mi ha domandato serio: «Mamma, perché tu sei cattiva? Chi ti ha detto che lo sono, amore?» «Rachel.» «No, Arthur, Rachel non può aver detto una cosa del genere.» «Allora è stato papà», mi ha detto ripensandoci. Qualche momento dopo ha aggiunto: «Ti dico perché credevo Rachel, perché quando sono con papà e dico che devo andare da mamma, o che mamma non vuole che io dico o faccia certe cose, lui dice sempre: "All'inferno la mamma!" E Rachel mi ha spiegato che solo chi è cattivo va all'inferno. Ecco perché penso che sei cattiva.» «Amore caro, non sono cattiva. Queste sono cose brutte da dire, e a volte chi è cattivo le dice di chi è migliore di lui. Ma sono parole che non possono mandarti all'inferno. Dio ci giudicherà per quello che pensiamo e per come ci comportiamo, non per quello che dicono di noi. Mi raccomando, quando senti certe parole, Arthur, ricordati di non ripeterle. È da cattivi dire certe cose di qualcun altro, non che qualcuno le dica di te.» «Quindi è papà il cattivo?» chiese avvilito. «Papà non dovrebbe dire certe cose e tu non dovresti assolutamente imitarlo, adesso che ti ho spiegato come funzionano le cose.» «Imitare che significa?» «Significa fare quello che fa lui.» «E lui lo sa come funzionano le cose?» «Può darsi, ma non ti deve interessare.» se non lo sa, tu glielo devi dire. Gliel'ho già detto. A quel punto il piccolo filosofo si è messo a pensare. Ho tentato di distrarlo da quell'argomento, ma senza riuscirci. Mi dispiace che papà sia cattivo, ha concluso con amarezza. Non voglio che finisca all'inferno. E poi si è messo a piangere, disperato. L'ho consolato, assicurandogli che il papà potrebbe sempre cambiare e diventare buono prima di morire. Ma ora, dico, non è arrivato il momento di liberare il piccolo da un padre simile?